40. Il martire. Anche il più lungo viaggio bisogna che abbia un termine. E la notte più fosca ha pur sempre un'aurora. Il volo eterno e inesorabile del tempo affretta il giorno del malvagio verso una notte senza fine e cambia la notte del giusto in un giorno di luce eterna. Noi abbiamo accompagnato il nostro umile amico nella valle della schiavitù. Dapprima in mezzo ai campi fioriti dell'agiatezza e della benignità, noi assistemmo a separazioni che spezzano il cuore quando l'uomo è tolto a tutto ciò che gli è caro. Approdammo con lui in quell'isola, rallegrata dal sole, dove mani generose nascondevano tra i fiori le sue catene. E finalmente, sempre al suo fianco, vedemmo gli ultimi raggi della speranza terrena spengersi in seno a notte oscurissima. Ma vedemmo come tra quell'oscurità desolata gli si rivelasse a un tratto il cielo con tutta la pompa di nuove stelle e di splendori inusitati. La stella del mattino brilla ora sulla vetta dei monti e venticelli e brezzoline annunziano che le porte del giorno sono dischiuse. Il caso di Emmeline di Cassi irritò altamente il già irritabilissimo e feroce Legree e, come c'era da aspettarsi, il suo furore cadde sopra il capo di Tom, innocente e senza difesa. Quando Legree, con brevi e concitate parole, fece noto agli schiavi quella fuga, il lampo di gioia che sfavillò negli occhi di Tom e il suo protendere delle mani al cielo non sfuggirono al suo sguardo sospettoso. Avendo poi visto che Tom non si era unito alla truppa che doveva raggiungere le fuggitive, pensò di costringerlo a farne parte, ma conoscendone per prova l'inflessibilità quando gli si voleva imporre un atto inumano, egli non volle in quel trambusto entrare in alcuna discussione con lui. «Io l'odio a morte!» esclamò Legree quella notte quando si fu coricato. «Sì, lo odio a morte! E non è forse mio? Non posso farne ciò che mi piace! Chi potrebbe impedirmelo? Vorrei un po' vedere!» E Legree agitò nell'aria quel suo pugno chiuso, quasi avesse voluto stritolare qualche oggetto invisibile. Ma Tom era uno schiavo fedele e prezioso, e quantunque Legree covasse contro lui un odio terribile, questa considerazione lo frenava alquanto. La mattina seguente Legree risolse di frenarsi ancora e di radunare alcuni suoi vicini per circondare la palude e fare una caccia in regola con cani e fucili. Se gli riusciva di trovare le fuggitive era contento, se no intimerebbe a Tom di comparirgli dinanzi e a questo pensiero digrignò i denti e il sangue gli ribollì e allora farebbe ben piegare il ribelle, poiché una voce interna gli sussurrò un'orrenda parola e l'anima di lui vi assentì. «Ebbene», disse Cassie il giorno seguente dopo aver spiato dall'abbaino della soffitta, «la caccia sta per ricominciare anche oggi». Tre o quattro uomini a cavallo caracollavano dinanzi alla casa e due mute di cani forestieri, sforzandosi di scappare ai neri che li tenevano, guaivano e abbaiavano gli uni contro gli altri. Cassie avvicinò l'orecchio alla finestrella e, siccome spirava il venticello del mattino, le riuscì di ascoltare gran parte dei loro discorsi. Un sorriso di profondo disprezzo parve infocasse vieppiù il suo grave e severo aspetto. All'udire che si dividevano il terreno, discutevano sul merito dei loro cani, davano ordini sul modo di tirare e sul castigo che, in caso di buona riuscita, ciascuno avrebbe a subire. Cassie, ritiratasi dall'abbaino, congiunse le mani e, alzando gli occhi, esclamò: «Gran Dio onnipotente, noi siamo tutti peccatori, ma che cosa abbiamo fatto di più degli altri uomini per essere trattate in tal guisa?» E nella fisionomia e nella voce di Cassie era una serietà terribile mentre pronunziava queste parole. «Se non fosse per voi», disse a Emmelina, «io andrei a loro e ringrazierei quello che m'atterrasse con un colpo di fucile, poiché quale vantaggio avrò a essere libera? Potrò riavere i miei figli o tornare com'era una volta?» Emmelina, nella sua semplicità infantile, rimaneva quasi atterrita dal fosco umore di Cassie. Tutta incerta e non sapendo che cosa dovesse risponderle, la prese per la mano in atto amorevole. «Lasciatemi», disse Cassie ritirando la mano con impeto. «Voi mi costringete ad amarvi e io non voglio amare più nessuno». «Mia buona Cassie», esclamò Emmelina, «non dite così, ve ne prego. Se Dio ci dona la libertà, forse egli vi renderà vostra figlia e in ogni caso io sarò come una figlia per voi. Ahimè, so bene che non rivedrò mai più la mia povera e vecchia madre. Io vi amerò, Cassie, sì, vi amerò, che mi rispondiate o no». Quella soave e infantile anima trionfò. Cassie si sedette accanto a lei, le pose il braccio intorno al collo e con l'altra mano le carezzò i morbidi e bruni capelli. E intanto Emmelina ammirava la bellezza degli occhi di Cassie velati di lacrime. «Oh, Emmelina», disse Cassie, «per i miei figliuoli ho sofferto la fame e la sete e i miei occhi si sono indeboliti a forza di piangere. Qui», esclamò battendosi il petto, «tutto è desolato, tutto vuoto. Se Dio si degnasse ridarmeli, pregherei allora, oh sì, pregherei». «Dobbiamo confidare in lui», rispose Melina. «Egli è nostro padre». «Ah, la sua collera sta su di noi. Egli, nella sua ira, non ci volge più lo sguardo». «Ah, no, Cassie, no. Egli non ci abbandonerà. Speriamo in lui. Io ebbi sempre questa speranza». La caccia fu lunga, animata, in piena regola, ma infruttuosa, e Cassie, con grave e ironica contentezza, guardava dall'alto lo stanco e avvilito Legree scendere da cavallo. «Ora, Kimbo», disse Legree, dopo essersi sdraiato sopra un sofà nella sala al pian terreno, «conducete qui Tom all'istante. Quel vecchio birbone deve essere l'anima di questa faccenda. Trarrò il segreto dal suo rancido cuoio nero e saprò ben io come». Sambo e Kimbo, benché si odiassero a vicenda, erano spinti del pari da un odio non meno crudele contro Tom. Da principio Legree aveva detto loro che era sua intenzione di farne il suo ispettore generale in sua assenza e ciò aveva suscitato in essi una malevolenza accresciutasi nella loro indole abietta e servile a mano che Tom cadeva in disgrazia del padrone. Kimbo fu dunque ben lieto di eseguire il suo ordine. Tom riceve il messaggio con tristi presentimenti in cuore, poiché gli era noto tutto il disegno delle fuggitive e il loro nascondiglio. Egli conosceva l'implacabile fierezza dell'uomo con cui aveva da fare e il suo potere dispotico. Ma si sentiva forte in Dio per incontrare la morte piuttosto che tradire quelle sventurate. Depose il suo canestro nella fila degli altri e, sollevando gli occhi al cielo, disse: «Nelle tue mani commetto l'anima mia. Tu mi hai redento, Signore Dio, di verità». Poi si diede con tutta pace a Kimbo, che lo trascinò brutalmente. disse il gigante, «or ora ti salderemo il conto. Il padrone è arretrato con te nei pagamenti. Non c'è via di scampo. Vedrai, vedrai che cosa frutta il dar mano ai neri del padrone per farli fuggire». «Ebbene, Tom», disse Legree, afferrandolo aspramente per il bavero e parlando coi denti stretti in un parossismo di rabbia, «tu sai che ho in animo di ucciderti?» «Non ho difficoltà a crederlo, padrone», rispose Tom placidamente. «Ho preso questa risoluzione e non cambierò», disse Legree con fiera e tremenda calma, «seppure tu non riveli ciò che sai di quelle due donne». Tom stette muto. «Non senti?» gridò il padrone, ruggendo al pari di un leone ferito. «Parla!» «Non ho nulla da dire, padrone», rispose Tom con voce lenta, ferma e risoluta. «Come osi dirmi, vecchio cristiano nero, che non sai nulla?» Tom non rispose. «Parla!» disse con voce tonante Legree, percuotendolo con grande furore. «Sai qualche cosa?» «Sì, padrone, ma non posso rivelare nulla. Morire sì, posso». Legree respirò a stento e, frenando la sua rabbia, ghermì Tom per il braccio, appressò il viso a quello del suo schiavo e gli disse con voce terribile: «Odimi, Tom. Odimi, tu credi che le mie minacce siano vane, perché l'hai scampata una prima volta, ma ora la mia risoluzione è ferma, irrevocabile. Ho calcolato la spesa. Tu mi contrariasti finora, ma oggi saprò domarti o ti ucciderò, una delle due. Io verserò il tuo sangue goccia a goccia fino a che tu ceda». Tom guardò il suo padrone e rispose: «Padrone, se voi foste malato o in grande afflizione o moribondo e io potessi salvarvi, di vero cuore offrirei la mia vita per voi, e se io potessi salvare la preziosa anima vostra con lo spargere tutto il sangue di questo povero vecchio corpo, lo darei spontaneamente, come Cristo diede il suo per noi. Oh, padrone, non caricate la vostra anima di un tale delitto. Esso farà maggior danno a voi che a me. Fate il peggio che potete. I miei patimenti finiranno subito, ma se voi non vi pentite, i vostri non finiranno mai». Come nota mai udita di musica celeste in mezzo al fragore della bufera, quello slancio di commiserazione sospese per un istante il furore di Legree. Egli Stava come trasognato, con gli occhi fissi su Tom, e vi fu un silenzio tale che si udì l'oscillare del pendolo dell'orologio da cui erano contati lentamente gli ultimi istanti di misericordia e di prova concessi a quell'anima indurita. E furono pochi. Dopo una breve perplessità e un meno selvaggio battito del cuore, lo spirito del male tornò con veemenza 7 volte maggiore e Legree, spumante di rabbia, si scagliò sulla sua vittima e l'atterrò. Il nostro orecchio e il nostro cuore rifuggono da scene di sangue e di crudeltà, ciò che un uomo ha il coraggio di fare, un altro uomo o donna non hanno il coraggio di udire. Ciò che un uomo, fratello nostro e cristiano, ebbe a soffrire non può esserci narrato neppure fra le pareti domestiche, tanto ci strazierebbe l'anima. E nondimeno, oh patria mia, queste cose si fanno all'ombra delle tue leggi. Oh Cristo, la tua Chiesa le vede e sta zitta. Ma fu già nel mondo un tale, le cui pene cambiarono uno strumento di tortura e di ignominia in un simbolo di gloria, di onore e di immortalità. E dovunque è il suo spirito, né i flagelli né gli insulti possono rendere meno gloriosi gli ultimi combattimenti di un cristiano. Era solo forse in quella lunga notte, in quel vecchio magazzino, il buon nero Tom, il cui cuore animoso e benevolo sapeva reggere a tutti i tormenti? No, gli stava accanto quell'uno, veduto da lui solo, l'ineffabile figlio di Dio. Il tentatore, accecato dalla furiosa e dispotica volontà, gli era esso pure al fianco e si sforzava di persuaderlo ad evitare quell'agonia crudele col tradire l'innocenza. Ma il cuore forte e sincero di Tom stava saldo, appoggiato alla rupe eterna. Come il suo divino maestro, egli sapeva che se aveva il potere di salvare gli altri, non l'aveva di salvare se stesso, e i tormenti più atroci non poterono strappargli se non espressioni di preghiera e di santa fiducia. «Lo abbiamo quasi finito, padrone», disse Sambo, toccato suo malgrado dalla pazienza della vittima. «Batti fino a che ceda! Colpisci, colpisci senza pietà!» vociferò Legree. «Io gli trarrò l'ultima goccia di sangue se non fa una rivelazione!» Tom riaprì gli occhi e guardò Legree. «Povera infelice creatura!» disse egli. «Ecco tutto ciò che potete fare! Io vi perdono con tutta l'anima!» E svenne. «Credo che finalmente sia spacciato!» disse Legree avvicinandosi per guardarlo. «Sì, lo è!» Oh, la sua bocca è chiusa finalmente, è proprio una consolazione. Ma chi, o Legree, farà tacere quella voce nell'anima tua, in quell'anima impenitente che non conosce né preghiera né speranze, nella quale arde già il fuoco inestinguibile della dannazione? Ma Tom non era ancora morto. Le sue parole mirabili e le sue pie preghiere avevano toccato il cuore dei neri abbrutiti che erano stati gli strumenti della crudeltà di Legree. E mentre questi si allontanava, essi gli furono attorno e nella loro ignoranza si studiavano di richiamarlo in vita come se fosse stato per lui un beneficio. «È certo», disse Sambo, «che noi abbiamo fatto una cosa orribile. Spero che solo il padrone avrà da renderne conto». Lavarono le sue ferite, gli acconciarono alla meglio un letto con un po' di cotone scartato. Poi uno di essi andò in casa e chiese a Legree un sorso di acquavite di cui diceva aver bisogno per ristorare le sue forze. E venne a versarlo nella bocca di Tom. «Oh Tom», disse Kimbo, «noi siamo stati molto barbari con te». «Io vi perdono di tutto cuore», bisbigliò Tom fievolmente. «Oh Tom», domandò Sambo, «di a noi chi è quel Gesù che ti è stato vicino durante la notte, chi è?» Queste parole ravvivarono gli spiriti del moribondo. Egli, in poche frasi piene di energia, narrò la vita e la morte di colui che, presente in ogni luogo, ha il potere di salvare, e piangevano ambedue quegli uomini selvaggi. «Perché nessuno ci ha mai detto questo?» esclamò Sambo. «Ma io credo in lui, non posso fare a meno. Oh Signore Gesù, abbi pietà di noi!» «Povere creature», disse Tom, «io sono contentissimo d'aver sofferto, se ciò varrà a tirarvi verso Cristo. Oh Signore, dammi ancora queste 2 anime, te ne prego!» E la sua preghiera fu esaudita. 41. Il padroncino. 2 giorni dopo, un giovane che guidava un piccolo calesse traversò il viale degli alberi della Cina e, gettate precipitosamente le redini sul dorso del cavallo, balzò a terra e chiese del proprietario della piantagione. Era Giorgio Shelby, e per spiegare come gli fosse qua venuto bisogna che torniamo indietro a continuare la sua storia. La lettera di Miss Ophelia alla signora Shelby era rimasta per mala sorte quasi 2 mesi in qualche ufficio della posta fuori di mano, prima di giungere a destinazione, e perciò, quando fu ricevuta, Tom era già perduto in mezzo ai paludosi terreni del fiume Rosso. La signora Shelby lesse con gran desiderio le notizie di Tom, ma si trovava nell'impossibilità di adoperarsi immediatamente in suo favore. Era allora tutta intenta a curare il marito, colto da una violenta febbre che gli dava il delirio. Giorgio, suo figlio, lasciato da noi fanciullo, si era fatto un giovane, alto e ben complesso, e con lei reggeva l'amministrazione degli affari di suo padre. Miss Ophelia si era presa la cura di indicarle il nome dell'agente della famiglia Sinclair, e ciò che si poteva fare in quell'emergenza era di indirizzargli una lettera per chiedere notizie di Tom. La morte del signor Shelby, avvenuta pochi giorni dopo, recò naturalmente molte nuove cose da aggiustare, cui madre e figlio dovettero rivolgere ogni loro pensiero. Il signor Shelby aveva dimostrato quanto confidasse nell'abilità di sua moglie, leggendo lei sola ad amministrare i suoi beni, e così le cadeva sulle braccia un nuovo imbrogliato cumulo di faccende. La signora Shelby, con l'operosità che le era propria, attese diligentemente a riordinare quell'intralciata matassa di affari e, insieme a Giorgio, stettero alcun tempo a raccogliere ed esaminare i conti, a vendere stabili, a pagar debiti, per assestare ogni cosa in chiara e autentica forma. In questo frattempo giunse una risposta dell'agente della famiglia Sinclair e gli diceva di non sapere cosa alcuna di Tom dal giorno in cui era stato venduto all'incanto. Né Giorgio né la madre potevano essere soddisfatti di ciò. 6 mesi dopo all'incirca, Giorgio, avendo bisogno di mettere ordine ad alcuni affari nel sud, lungo il fiume, risolvette di andare di persona a New Orleans e di far tutte le ricerche nella speranza di scoprire dove fosse Tom e riscattarlo. Dopo alcuni mesi di ricerche infruttuose, Giorgio si incontrò per caso a New Orleans in un uomo che gli poté dare le tanto desiderate informazioni. Perciò, munitosi di una buona somma di denaro, il nostro eroe salì in piroscafo per il fiume Rosso, risoluto di trovare e ricomprare il suo vecchio amico. Fu introdotto nella casa e trovò Legree in sala al pian terreno. Questi lo accolse con una specie di rude ospitalità. «Ho saputo che voi compraste a New Orleans un nero per nome Tom», disse il giovane. «Egli serviva nella piantagione di mio padre, io vengo nella speranza di riscattarlo». Legree si fece scuro in volto e rispose sdegnosamente. «Sì, comprai quel negro, e fu un diabolico mercato che io feci, egli è il cane più ribelle, più insolente e sfacciato, induce i miei neri a fuggire. Poco fa ha agevolato la fuga di 2 donne che valevano ciascuna da 800 a 1000 dollari». Egli lo ha confessato, ma quando gli ho imposto di dire dove sono andate, ha risposto che ben lo sa, ma che non dirà nulla, e ha mantenuto il silenzio, quantunque io l'abbia fatto conciare in modo come mai altro schiavo prima. Credo che gli voglia provarsi a morire, ma non so se gli riuscirà. «Dov'è?» chiese Giorgio impetuosamente. «Lasciate che io lo veda». Una viva porpora aveva tinto il viso del giovane, e i suoi occhi gettavano fuoco, e gli ebbe la prudenza di non dire altro. «È in quel magazzino laggiù», disse un negretto che teneva il cavallo di Giorgio. Legree assestò bestemmiando un calcio al ragazzetto, ma senza dir sillaba Giorgio corse al luogo indicato. 2 giorni erano trascorsi dalla notte fatale e Tom, sempre lì coricato, non soffriva, giacché le tante percosse gli avevano come ottuso i nervi che trasmettono il dolore. Stava il più del tempo immerso in un quieto letargo. I vincoli che tenevano chiusa l'anima in quelle membra vigorose non potevano ancora spezzarsi. Furtivamente, nel buio della notte, povere creature desolate, togliendo alcuni istanti al loro breve riposo, venivano a rendergli quelle affettuose cure nelle quali egli aveva tanto abbondato con esse. Per verità, quei poveri discepoli avevano poco da dargli, un bicchiere d'acqua fresca, ma lo davano di tutto cuore. Cassie, venuta fuori di soppiatto dal suo nascondiglio, intese qual sacrificio egli avesse consumato a pro di lei e di Emelina, e sfidando il rischio di essere scoperta, era stata a visitarlo la notte precedente, commossa altamente dalle poche ultime parole che egli ebbe la forza di pronunciare. Ella sentì fondere al fine il lungo ghiaccio della sua disperazione e poté piangere e pregare. Quando Giorgio entrò nel vecchio magazzino, gli si strinse il cuore e la sua testa fu presa da vertigine. «È possibile! È possibile!» esclamò inginocchiandosi presso di lui. «Zio Tom, mio povero vecchio amico!» Quella voce parve che facesse impressione sull'udito del morente, poiché egli mosse appena il capo con un sorriso e mormorò alcune parole inintellegibili. Il giovane, inclinato sul suo vecchio amico, sparse lacrime di dolore e disse: «Oh, caro zio Tom, svegliatevi, parlate ancora una volta, guardate, ecco il padroncino Giorgio qua, il vostro piccolo Giorgio, non mi ravvisate!» «Padron Giorgio!» disse Tom aprendo gli occhi e parlando con voce fievole. Egli guardava come fuori di sé. A poco le idee gli si schiarirono, il suo sguardo incerto diveniva fisso e scintillante, tutto il viso gli brillò di gaudio. Egli congiunse le mani e gli scesero alcune lacrime dagli occhi. «Oh, sia benedetto il Signore! È lui! È proprio lui! Questo è quanto desideravo! Non sono stato dimenticato! Ciò mi ravviva e mi fa bene al cuore. Adesso io muoio contento. Benedici il Signore, anima mia!» «Oh, non morrete, non dovete morire, non ci pensate neppure, io sono venuto per riscattarvi e ricondurvi a casa», disse Giorgio con gran veemenza. «Oh, padron Giorgio, voi venite troppo tardi, il Signore mi ha già riscattato ed egli pure mi conduce a casa dove io desidero di andare. Il cielo è ben da anteporsi al Kentucky. Oh, non parlate così, mi si spezza il cuore, mi sento morire al pensiero di quanto avete sofferto giacendo qui in questo vecchio magazzino, mio povero amico!» «Non dovete compiangermi», disse Tom solennemente. «Io sono stato infelice, ma ora tutto è passato. Eccomi giunto alla porta e già entro nella gloria. Oh, padron Giorgio, il cielo è venuto, la vittoria è in mia mano, il Signore me la diede, gloria al suo nome!» Giorgio, tutto maravigliato della forza e della fermezza con cui l'agonizzante pronunciava queste parole, lo contemplava in silenzio. Tom gli prese la mano e continuò: «Non dite a Chloe, poveretta, in che stato mi avete trovato. Sarebbe per lei cosa troppo orribile. Solamente le direte che mi trovaste pronto ad entrare nella gloria e che io non potevo più rimanere sulla terra. E ditele che il Signore fu meco dappertutto e sempre e mi rese facile ogni cosa. I miei poveri figli, ahimè, la piccoletta. Il mio cuore si è quasi spezzato col tanto sospirare verso di loro. Dite a tutti loro che seguono il mio esempio. Recate i miei riverenti saluti al padrone, alla cara e buona signora e ricordatemi a tutti di casa. Sapete, io li amo tutti. Io amo tutte le creature. In ogni luogo non c'è di bene che l'amore. Oh, padron Giorgio, è pur dolce cosa essere cristiano!» In quell'istante sopraggiunse Legree fino alla porta del magazzino, vi gettò uno sguardo con aria cupa e se ne tornò via con affettata indifferenza. «Vecchio scellerato!» esclamò Giorgio nella sua indignazione. «È un conforto pensare che il diavolo presto gli pagherà il suo conto!» «Non dite così!» riprese Tom, stringendogli la mano. «Egli è una povera e misera creatura, fa male al cuore a pensarvi. Se almeno potesse pentirsi, Dio gli perdonerebbe ancora, ma temo che non si penta più.» «Spero di no», disse Giorgio, «non mi piacerebbe vederlo in cielo.» «Zitto, padron Giorgio, sono parole che mi affliggono. Non abbiate questi sentimenti, egli non mi fece in sostanza alcun male, mi aprì soltanto le porte del regno celeste, non altro mi fece.» La forza soprannaturale che la vista di Giorgio aveva dato al morente, riempiendolo di gioia, lo abbandonò a un tratto. Tom chiuse gli occhi e sui suoi lineamenti avvenne quella sublime e misteriosa trasfigurazione che è foriera degli estremi momenti. Il suo largo petto si alzava e si abbassava con ansia dolorosa, il respiro ne usciva profondo e interrotto, l'espressione del suo volto era quella di un vincitore. Chi potrà toglierci l'amore di Cristo? Mormorò con voce flebile e si addormentò per sempre in un sorriso. Giorgio rimase immobile per solenne venerazione. Il luogo gli parve santificato. Dopo aver chiuso con gli occhi spenti, solo un pensiero si impadronì di lui, quello che il morente aveva espresso. È pur dolce cosa essere cristiano. Si voltò. Legree stava lì presso con aria truce. Quella scena di morte aveva placato l'impeto giovanile di Giorgio e così la presenza di quell'uomo non eccitò in lui che orrore. Il solo suo desiderio fu di fuggirlo più presto che fosse possibile. Fissando i suoi neri occhi sopra Legree, gli disse semplicemente accennandogli il morto: «Voi aveste di lui tutto quello che se ne poteva avere. Quanto volete che vi paghi il suo corpo? Voglio portarlo meco e dargli onore e sepoltura». «Non vendo negri morti», disse Legree con ruvidezza. «Potete seppellirlo dove volete». «Ragazzi», disse Giorgio con accento imperioso a tre neri che guardavano il corpo, «aiutatemi a trasportarlo nel calesse e datemi una zappa». Uno di loro corse in cerca della zappa e gli altri due prestarono mano a Giorgio per porre il cadavere nel calesse. Il giovane non guardò Legree. Questi non si oppose agli ordini di lui, ma stava ritto, fischiando con forzata indifferenza. Poi li seguì fino al calesse che era dinanzi alla porta. Steso il suo mantello nel calesse, Giorgio vi depose il cadavere e lo avviluppò diligentemente. Quindi, voltatosi, fissò lo sguardo in Legree e disse, malfrenando l'ira: «Io non vi ho detto ancora come la penso intorno a questo atroce affare. Non è questo il tempo né il luogo, ma di certo l'innocente avrà giustizia. Io proclamerò questo assassinio, vi denuncerò al primo magistrato che troverò sul mio cammino». «Ah, bene», disse Legree facendo scoppiettare le dita con disprezzo. «Avrei davvero molto gusto a vedervi provare. Dove troverete qualche testimonio? Quale indizio offrite? Io vi sfido a metterne in campo». Giorgio riconobbe la forza della sfida. Non v'era un bianco in tutta la piantagione e nei tribunali del sud la testimonianza ad un nero non valeva. Egli credette per un istante che il cielo rispondesse all'appello, ma il cielo era muto. «E poi, alla fine!» esclamò Legree. «Quanto strepito per un negro morto!» Queste parole furono come una scintilla in una polveriera. La prudenza non fu mai una virtù cardinale in un giovane del Kentucky. Giorgio, con un pugno ben assestato, gettò per terra Legree e mentre gli stava sopra fiammeggiante di furore, poteva essere paragonato al santo guerriero del suo nome, vincitore del drago. Vi sono certuni ai quali veramente giova l'essere malconci di battiture. Se un uomo li fa stramazzare nella polvere, essi concepiscono subito un gran rispetto per lui. Legree era di costoro. Rialzatosi e data una scossa alle sue vesti, guardò con non dissimulata considerazione il calesse che si allontanava, né aprì bocca fino a che non l'ebbe perduto di vista. Oltre il confine della piantagione, Giorgio aveva veduto un monticello di sabbia adombrato da alcune piante. Qui vi scavarono la fossa. «Dobbiamo togliere il mantello, padrone», domandarono i neri quando la fossa fu fatta. «No, no. Seppellitevelo dentro, è la sola cosa che io possa darti, povero Tom». Lo adagiarono nella fossa e lo coprirono di terra in silenzio. Colmata la fossa, vi stesero sopra alcune zolle. «Potete andare, figliuoli», disse Giorgio, mettendo nella mano di ciascuno di essi una moneta. Ma coloro stavano in forse di partire. «Padrone, comprateci», disse uno di loro. «Vi serviremo con fedeltà», soggiunse l'altro. «Fa brutto tempo qui», riprese a dire il primo. «Dai, padrone, comprateci!» «Non posso, non posso», replicava Giorgio, accomiatandoli a fatica. Quei poveri neri si allontanarono senza dire altro, con faccia contristata. «Eterno Iddio», disse Giorgio, cadendo in ginocchio sulla sepoltura del suo povero amico, Ti chiamo a testimonio che da quest'ora in poi io farò quanto può fare un uomo per cacciar via dalla mia patria questa maledizione della schiavitù.